Per inquadrare dal punto di vista storico-religioso la situazione di Trieste e in parte dell'Istria nel periodo in questione, credo occorra offrire innanzitutto una rapida informazione sugli aspetti più rilevanti di essa, soprattutto in relazione ai temi della nazionalità, che sono fondamentali. La ripartizione tra quelli italiani, sloveni e croati era dato caratterizzante. Con gli italiani concentrati a Trieste nelle cittadine costiere dell'Istria, così come nel cuore dei centri urbani dell'interno, le popolazioni slovene presenti nell'immediata retroterra carsica e suburbana del capoluogo e nel nord dell'Istria, mentre quelle croate erano diffuse nell'entroterra istriano prevalentemente rurale. E qui ho fatto un artigianale lucido per dare una sapere di cosa stiamo parlando. Non è certo questo un impianto da leggere come fisso e immutabile, perché al contrario, fu proprio la dinamica del costante fenomeno di innovamento con i suoi meccanismi ad innescare quei processi socioculturali che per molti versi sarebbero stati al centro della vita ecclesiastica e il senso lato dei rapporti tra Chiesa e istituzioni politiche, in particolare a Trieste. Il concordato tra Austria e Santa Sede del 1855, nelle sue linee generali, offriva un'immagine dei rapporti tra Chiesa e Stato all'insegna del recupero di quella profonda compenetrazione tra i due poteri, che portava a parlare dell'Austria come della monarchia cattolica per eccellenza. Un sogno, agli occhi dei vertici vaticani, come ha scritto Padre Martino, destinato a durare poco, con le progressive svolte imprese da parte austriaca a partire dagli anni 60, la frattura venutasi a creare dopo gli esiti del Concilio Vaticano e le leggi dei primi anni 70. Del resto, proprio a Trieste, la realtà locale difficilmente si poteva interpretare nell'ottica di una cristianità riconsolidata. La presenza ormai storica delle diverse confessioni religiose, dagli scismatici, come venivano chiamati i cattolici, alle varie chiese protestanti, il ruolo consistente della comunità ebraica, impedivano nelle linee generali una lettura in tal senso. Per ciò che riguardava poi la popolazione italiana della città, sul piano religioso, ad una appartenenza anagrafica della sua grande maggioranza alla Chiesa cattolica, non corrispondeva affatto un'analoga frequenza e partecipazione alla vita religiosa, né un legame o una precisa adesione rispetto ai canoni e ai precetti da essa offerti. Al contrario, la città offriva un'immagine in cui l'indifferentismo religioso sembrava un dato consolidato. Ciò che nel corso dell'Ottocento, nella cultura cattolica e nella polemica contro la società moderna, sarebbe apparso come un dato sempre più all'ordine del giorno, nella realtà locale era un fatto ormai diffuso da decenni. E proprio sulla scorta di tale lettura e sui pericoli che derivavano da una società non più regolata e fondata sui principi cristiani, si articolava la linea seguita dalla gerarchia ecclesiastica locale intorno e a partire dalla metà del secolo. Il rendere evidente, cioè, ai poteri locali il ruolo insostituibile della Chiesa per garantire l'ordinato vivere civile, la staticità dei luoghi contro la possibilità di involgimenti sociali. Assai diverso risultava essere il rapporto con i fedeli slavi. Il secolare legame tra Chiesa e clero cattolico con le popolazioni slovene croate continuava a perdurare in maniera solida a partire dal mondo rurale. Il rapporto molto stretto tra etnia, appartenenza nazionale e comunione alla Chiesa cattolica era un dato forte ormai secolare. La realtà dei villaggi montani attorno alla propria Chiesa e al proprio sacerdote era un fatto comune e diffuso dal Carso all'entroterra istriano, come del resto avveniva in regioni contermini come il Friuli, come dicevo Friuli. La funzione del clero sloveno e croato come ceto intellettuale appare quindi un aspetto significativo, anche grazie al radicamento della figura sacerdotale in quel contesto, una caratterizzazione non solo limitata alla dimensione religiosa, ma estesa anche a tutta quella gamma di aspetti civili e amministrativi, non legati esclusivamente al ruolo post-giuseppinista del clero funzionario, ma conseguente a quel tipo di società contadina e dai suoi livelli di progressivo innalzamento, di alfabetizzazione e acculturazione. L'impetuoso sviluppo della città di Trieste dal punto di vista economico e i massicci fenomeni di innovamento che ne caratterizzarono l'andamento, con un notevole innalzamento della popolazione dai 104.000 abitanti del 1857 ai 224.000 del 1909, avrebbero segnato il sorgere del conflitto nazionale, soprattutto soprattutto per la cospicua quota di migranti dall'entroterra slovena e croata. Contrariamente al passato, quando nella città si rendevano possibili i processi di assimilazione della prevalente cultura italiana dei nuovi cittadini, a partire dalla seconda metà del secolo si assisteva ad una sempre maggiore difficoltà di assorbimento, prendendo sempre più forte e consistenza in loro la coscienza nazionale, la conservazione della propria lingua, il senso della propria identità. Processi che non nascevano a caso. La presenza minoritaria degli sloveni a Trieste e non solo nei villaggi del circondario è un fatto secolare. Si assisteva ora a diffondersi di una classe media sempre più agguerrita, con il conseguente sviluppo di un fitto reticolo associativo e tenacemente protesa per la difesa della propria lingua e delle proprie tradizioni. Per la Chiesa Cattolica la posta in gioco era quindi assai alta. Nel giudizio dei vertici ecclesiastici locali, come nel clero, l'assimilazione in città per i fedeli provenienti dalle campagne comportava inevitabilmente da parte loro la perdita della fede e dei costumi cristiani, l'adeguamento ai valori del secolo, lo scivolamento dell'indifferentismo nella cristianizzazione. La conservazione di questi nuovi cittadini, secondo l'appartenenza e i principi religiosi dettati dalla loro provenienza, rappresentava un obiettivo prioritario e del resto abbastanza ovvio e naturale. Conservare cioè nella loro fede uomini e donne che, provenienti da contesti fortemente impregnati di religiosità e uniformati nei loro comportamenti e dettami cattolici, rischiavano ora la perdita di tali caratteri. Nella sovrapposizione, però, che si è già sottolineata tra identità religiosa e appartenenza nazionale, la funzione di conservazione della religione significava allo stesso tempo mettere in atto forme di contenimento e di rafforzamento sul piano nazionale, degli usi linguistici e della comunicazione, dell'associazionismo e così via. Inoltre, è da sottolineare come nel legame venutosi a instaurare tra la gerarchia cattolica triestina e le popolazioni slovene e croate, occorre tenere presente l'influenza in ciò avuta dalla politica dei governi di Vienna, inclini cioè a favorire il consolidamento dei legami alla dinastia da parte dei popoli slavo-meridionali. Ciò avveniva anche attraverso la nomina di vescovi slavi moderati dal punto di vista nazionale, anche soggettivamente proprio per l'alto ruolo ricoperto, sostenitore dei processi di rafforzamento della coscienza nazionale, e vescovi più attivi a favorire la coesione e il compattamento dei propri fedeli nei confronti della monarchia. Fin dagli anni 30 del secolo, quindi, sulla cattedra triestina si erano così succeduti vescovi sloveni e croati. Da quanto ti ho osservato, credo appaia evidente come, al di là delle proporzioni numeriche tra cittadini e fedeli slavi e italiani, aspetti questi sempre molto controversi, il legame forte venutosi a instaurare nella diocesi di Trieste e Capodistria tra Chiesa e fedeli slavi non nascesse da una specifica volontà politica, quanto piuttosto direi da un fatto di necessità, naturale conseguenza cioè delle condizioni in cui si trovava ad operare la Chiesa nella città laica e cosmopolita per eccellenza, avendo dei fedeli sloveni la base più forte per frequenza religiosa, sviluppo associazionistico, confraternite e via dicendo. A Trieste, per tutta la seconda metà del secolo, si assisterà, tra la Chiesa e il Municipio, ad un progressivo deteriorarsi dei rapporti, passando da prassi di collaborazione e da posizione di confronto ad una lotta sempre più dura e disgregante. In termini generali, ovviamente schematici, si può dire che l'obiettivo di tutta la lotta politica, di tutta la lotta, poteva ricondursi all'esercizio dell'effettiva egemonia politica e culturale nella città, quell'egemonia allora patrimonio del Partito Liberale Nazionale Italiano, per la conservazione del quale la lotta politica sempre più si sarebbe caratterizzata nei termini della difesa nazionale, difesa cioè dell'italianità della città, a fronte, come si diceva allora, del pericolo slavo. La politica del municipio locale si sarebbe svolta sempre più esplicitamente nel disegno di porre l'istituzione ecclesiastica su un piano subalterno e marginale rispetto alla vita politico-sociale. La correzione di questo piano, al quadro generale di evoluzione della società europea in senso liberale, è fuori di dubbio, così come erano evidenti e resi espliciti i richiami alle svolte in senso liberale ed anticoncordatario della politica dei governi austriaci. I colpi inferti al ruolo prioritario riconosciuto fino ad allora alla Chiesa, a partire dall'istruzione, trovarono precisi riscontri sul piano locale, così come la generale tendenza a ridurre la religione a fatto privato, patrimonio della singola coscienza. Ma la specifica caratterizzazione locale era quella della difesa nazionale, e nei confronti della Chiesa questa politica investiva tutto il complesso articolarsi dell'organizzazione della vita religiosa. Il rapporto tra rappresentanza municipale di istituzione ecclesiastica fino alla metà degli anni 70 era stato di relativa collaborazione, per tutto ciò che riguardava l'annoso problema delle elezioni di nuove chiese ad opera del comune, il sostentamento dei sacerdoti catechisti nelle scuole e così via. Ma progressivamente, rispetto a tali aspetti direttamente legati al sostegno dei fondi pubblici e alla loro erogazione, la lotta ingaggiata con l'autorità diocesana avrebbe avuto come obiettivo esplicito la riduzione progressiva nelle chiese cittadine di tutti quegli aspetti inerenti alla vita religiosa, dalla predica in sloveno alla recita in tale lingua di preghiera e canti, per giungere infine al tentativo di eliminare del tutto dalla cinta urbana, limitandole a quella del suburbio. Non è questa l'occasione per entrare nel dettaglio rispetto alle concrete situazioni, ma di questo nel concreto si tratta. Il tentativo, cioè, ribadire la divinità della Chiesa triestina, dei suoi martiri e della sua tradizione, di assottigliare sempre più quelle forme di espressione e partecipazione degli sloveni in città, che pure per anni non avevano destato la benché minima preoccupazione. L'acuirsi della lotta negli ultimi anni del secolo portava così ad uno scontro a tutto il campo. Sul passaggio della politica locale dal tradizionale autonomismo triestino al piano della difesa nazionale, con una fortissima capacità di aggregazione in questo senso nel nome dell'italianità minacciata dei sopravvenuti, sono state scritte, a partire dal Vivante, pagine molto acute, cui prese si tagliano. Di sicuro, in ogni caso, nello svilupparsi di tali processi, la Chiesa veniva posta inevitabilmente come ostacolo di prima grandezza. Accanto infatti alle tradizionali accuse di clericalismo, con tutto il bagaglio polemico sulla Chiesa e sui ministri nemici del progresso del vero bene, l'oggettivo porsi di essa sul piano della conservazione di usi linguistici e in una parola della cultura religiosa nazionale dei fedeli slavi la poneva in quest'ottica in una sorta di vicolo cieco da cui era difficile uscire. È indubbio che la politica sostenuta da Leone XIII nei confronti dei popoli slavi, con una peculiare attenzione a ribadire e rinsaldare i loro legami con la sede apostolica nel più generale disegno di unione con le chiese separate a partire dall'enciclica Grande Nuno, innescò e favorì i fenomeni di rafforzamento dell'identità nazionale e dell'appartenenza cattolica per questi popoli, generando un notevole attivismo in molti preti e vescovi, forti nel loro agire da questo sentimento di approvazione proveniente dalla massima autorità. Che tale disegno da parte della Santa Sede fosse più abbozzato che organico e conseguentemente perseguito è una cosa nota. In tal senso erano anche i rapporti con la monarchia asburgica e la sua politica nei Balcani a condizionare gli esiti. Ma anche all'interno della stessa Curia Vaticana permanevano scelte e opzioni di diverso tipo, non facilmente risoltesi nel breve periodo. Per fare un esempio sul piano dell'approccio verso i popoli slavo meridionali, appare difficile conciliare l'influenza e l'ascolto a Roma di un vescovo quale Monsignor Strosmayr e la nomina avviene dopo agli arti di un nunzio quale Monsignor Baliani, che difficilmente credo possa annoverarsi tra i fautori e i sostenitori della causa slava. Oscillazioni e disparità di vedute che, come vedremo nella questione dei decreti sull'uso della lingua e nella liturgia, oltre che a collegarsi con le tensioni presenti nel litorale austriaco, sarebbero puntualmente riemerse nel succedersi dei decreti e delle interpretazioni, larghe o strette, degli stessi. Per tornare quindi al contesto locale, accanto al fenomeno più generale di rinascita delle nazioni senza storia, in cui il clero giocava un ruolo importante, i segnali comunque provenienti da Roma sicuramente trovavano una pronta rispondenza in ampi settori del clero sloveno e croato, favorendo fermenti ed iniziative che in molti casi superavano gli ambiti del consueto agire sacerdotale. In questo modo il clero giungeva facilmente ai campi della politica, passando però nella vita ecclesiastico-religiosa ad introdurre in chiesa forme di espressione linguistica, dalle preghiere ai canti, per molti versi non conformi alle prescrizioni canoniche. Accanto infatti al mantenimento delle consuetudini, non mancavano sacerdoti in prima fila nel sostenere i processi di emancipazione nazionale, ponendo cioè tra i propri compiti istituzionali quello della promozione della crescita culturale, sociale e politica della propria nazione. L'immagine del prete sloveno e croato che si diffuse allora era quella di un sacerdote attivo principalmente verso i fedeli della propria nazionalità, un aspetto che poteva avere o aveva un riscontro nella realtà dei fatti e che per molti versi era vissuto da molti come connaturato al tradizionale ruolo sacerdotale. E il clima sacerdote di allora, però, tale immagine scivolava facilmente all'eccesso, fino a crearsi cioè uno stereotipo del tutto negativo. Slavofilo, slavomane, panslavista, slavizzatore, sarebbero stati tutti titoli applicati invariabilmente al clero slavo, ma non esclusivamente o solo propagandisticamente da parte di liberali democratici anticlericali italiani, come dovremmo da pensare, ma pure da parte di membri dello stesso clero italiano, fino ai vertici dell'organizzazione ecclesiastica. Si cita qui un punto essenziale, l'inserimento cioè a pieno titolo del clero nell'ordine nazionale. Viene quindi naturalmente da porsi la domanda su quale fosse il ruolo del clero italiano, se cioè specularmente fosse esso stesso in causa, in quali forme secondo quali linee di condotta. Un problema di fondo era rappresentato dal dato numerico, poiché in relazione ai processi socio-economici il reclutamento del clero italiano incontrava sempre maggiori difficoltà, in senso strutturale, come appare ripetutamente dalle fonti, mentre al contrario l'afflusso ai seminari dalle aree rurali slave continuava ininterrotto. Anche per gli aspetti di promozione sociale connessi a tale ruolo. Non a caso, quindi, il Partito Liberale Nazionale avrebbe cercato le vie per sostenere e favorire la crescita del clero italiano, un clero cioè attivo e partecipe nel senso da esso auspicato. Ma era soprattutto la subalternità dell'organizzazione politica dei cattolici italiani rispetto all'egemone movimento liberale nazionale che riduceva in ultima istanza i suoi spazi di influenza e la sua capacità di proporsi sul piano politico-sociale in funzione alternativa. Per la città di Trieste, poi, la presenza notevole di cariche e funzioni sacerdotali legate, per giusto patronato o altre, a filo doppio con il comune, determinavano rapporti e dipendenze facilmente piegabili a sostegno della politica delle autorità locali. Ma anche al di là di tali casi, l'irrigidirsi della lotta e le polarizzazioni nazionali implicavano facilmente il diffondersi di una prassi di schieramento in cui i fattori determinanti erano esterni alla cultura ecclesiastica tradizionale. Appare quindi evidente come, innanzitutto, a fronte di un clero in cui si profilavano due fronti contrapposti e partecipi delle lotte di nazionalità, la conduzione della diocesi appareva drammaticamente difficile. Accanto infatti alle dinamiche interne, già complesse, i rapporti con i poteri politici italiani risultavano via via di difficile gestione. Oltre ai gruppi liberali e a quelli conservatori, si ponevano le spinte della sinistra democratica e irredentista. E sul fronte del rapporto con gli slavi non mancavano neanche qui le estreme che spingevano sempre più affinché la Chiesa si schierasse apertamente e risolutamente sul piano della difesa nazionale, fatto di cui essa fino ad ora si era programmaticamente astenuta. Come quindi scritto Valdi in relazione all'Episcopato Gravina, si trattava di un equilibrio impossibile tra istanze al fondo del tutto opposte. L'aver la Chiesa la propria forza nelle popolazioni slave impediva di rescindere quei legali e la difesa nazionale a fronte degli attacchi diveniva un fatto oggettivo, passando da quella che era in origine una scelta pastorale a qualcosa di qualitativamente diverso. Un dato comunque sembrava chiaro. Come scriveva il giovane cancelliere della Curia di Trieste, Monsignor Mecca, fresco di studi romani, al cardinale Rampolla nel 96. Preto slavo sono divenuti sinonimi. Il clero comparisce agli occhi del popolo triestino quale un fattore di slavizzazione. Un fatto probabilmente vero, ma che coglieva solo un aspetto della questione e trovava quindi spiegazioni univoche. Ma al di là di tali aspetti, restava il fatto che il clero nazionale aveva sempre maggiori difficoltà a incidere nella realtà e a trovare ascolto e seguito nella popolazione. Il già limitato campo del suo operare rischiava forse ora di essere ancora più ridotto e pregiudicato. Anche per questo, viene da pensare, la carta delle rivendicazioni nazionali poteva offrire ai loro occhi una possibilità di svolta. L'Episcopato Sgravino, appunto, citato prima tra l'82 e il 96, alla metà degli anni 90 si caratterizzò nei rapporti col municipio per gli scontri aperti, alternati e ricorrenti tentativi di compromesso, che portarono inevitabilmente ad un regolamento su tutti i fronti e una perdita di consensi tra le fila slave per le accuse di cedimento rivolte. Le dimissioni del vescovo furono l'estrema conseguenza dell'intera vicenda. Ma come già osservato, le lotte nazionali non erano una peculiarità esclusiva alla diocesi triestina, ma di tutto il litorale, come ben scaturisce dalle relazioni sardine inviate periodicamente dall'allora vescovo di Parenzo e Pola, il friulano Monsignor Flavio, alla Santa Sede. Relazioni che sottolineano il ruolo progressivamente assunto dal clero slavo in tutti i sensi. Nell'85 rendeva noto come i propri fedeli slavi, sì di origine, ma che parlavano un dialetto in cui si mescolavano termini croati e italiani, il giovane clero croato, per migliorare il livello linguistico-culturale, Teneva sermoni in lingua vulgata, evidentemente letteraria, ma come scriveva, un frutto spirituale parvo aut dubio. Accanto a ciò prendeva diffusione la celebrazione della messa in lingua slavica vernacola. Tale prassi veniva sostenuta sulla base di antiche consuetudini, legate all'immigrazione in Istria delle popolazioni slave della Dalmazia nei secoli precedenti. Inoltre, il clero slavo giocava una parte di primo piano nelle contese politiche nazionali, determinando l'indignazione intera degli altri parrocchiani italiani. Nella relazione del 92, per gli stessi motivi, si deplorava come questo modo di agire andasse a detrimento della dignità sacerdotale vescovile, cadendo nel volto i suoi avvenimenti. Lo spirito del secolo, l'emancipazione da ogni vincolo, già presente nelle cittadine, come morbo infetto invadeva il mondo rurale abitato dai fedeli croati. Anche da lì nasceva quello spirito di ribellione e insubordinazione contro l'autorità ecclesiastica e civile che trovava un veicolo nella stampa slava. L'amore alla propria nazione e alla propria lingua portava questi fedeli a chiedere l'introduzione della lingua moderna in chiesa. Il cosiddetto schiavetto, un miscuglio di latino, croato, un po' antico, lingua moderna. Ancora una volta, nella relazione del 1895, Monsignor Flapp richiamava il distacco esistente tra costumi del popolo e gli insegnamenti ecclesiastici. Sebbene il forte attaccamento verso la fede e la religione si incontrava presso le popolazioni rurali, per i primi interslavos, quella da deplorare era quella che veniva definita come la passione politica e nazionale degli slavi contro gli italiani conio-cesani. L'amore immoderatus dei croati verso la propria lingua e la propria gente portavano le richieste sull'uso della lingua in chiesa, antica e moderna, e i preti, per impulso proprio o a ciò spinti dai propri parrocchiani, sostituivano il croato al latino, operando precisi abusi. Che lo stesso clero fosse ormai sempre più schierato nelle contese politiche nazionali appare poi evidente dalle circolari emesse dai vescovi di Trieste, Parenzo e Veglia in occasione delle elezioni per la dieta istriana del 1895, in cui si ribadiva come il clero dovesse restare estraneo alla lotta in corso e dovesse evitare di trattare in chiesa delle elezioni e delle questioni nazionali. Nemmeno per l'Istria è quando dunque mutava le linee generali. Del resto, anche in questa regione si trattava di una lotta politico-culturale tra il regione gruppo liberale italiano e l'emergente rappresentanza slava, sempre più decisa nel rivendicare i propri diritti. Anche alla metà degli anni 90 si poteva ormai dire che l'istituzione ecclesiastica si trovava ormai a pieno titolo inserita nello scontro di nazionalità. Basti pensare che al momento della successione del Gravina, la ventilata traslazione di Monsignor Flapp da Parenzo a Trieste suscitò una tale levata di scudi da parte slovena e croata da indurre il vescovo a rinunciare preventivamente a quella cattedra. La scelta cadeva quindi su Monsignor Sterk, da 2 anni vescovo di Veglia e per molti anni a Trieste. Una scelta quindi moderata dal punto di vista nazionale, in quanto figura nota per la propria imparzialità in questo senso. Ma a ben vedere, anche i vertici ecclesiastici erano ormai parte in causa, in un ruolo cioè che inevitabilmente faceva i conti con la propria appartenenza nazionale e culturale. Anche i vertici non si riusciva a sottrarre alla Chiesa non solo dai contrasti, con una pesante perdita di un ruolo di immagine da parte dei vescovi, ma diventava pressoché obbligata una sorta di scelta di campo. I vescovi di Flapp e Sterk sono in questo senso figure emblematiche. Si è già visto come le analisi del vescovo di Parenzo ponessero l'accento sul lato solo della medaglia, sull'attivismo e gli abusi del clero slavo, senza cogliere cioè, o senza voler cogliere, perché vi fosse quella spinta e per quali motivi fosse di quel tipo in quella direzione. Una lettura che di per sé significava, al fondo, essere un'analisi di parte. Il caso di Monsignor Sterk è ancora più eclatante, quasi paradossale. Proprio lui, che fin dalla pastorale d'ingresso aveva condannato con lucidità il nazionalismo, fissando come propria linea la più vecchia imparzialità, avrebbe finito per prendere decisamente le parti dei fedeli sloveni croati, superando le pur ampie ed eccezionali discrezionalità concessegli da Roma, proprio per evitare, nella sua valutazione, di rompere con loro gli stretti legami esistenti. E su un piano più generale si può cogliere tutta la difficoltà dei vescovi ad orientarsi e ad operare una scelta su questioni in cui si affiancava una prassi radicata e tradizionale, come nel caso delle prediche nelle lingue dei fedeli, e le nuove forme di azione sociale politiche e politica in cui il clero si trovava pienamente inserito. Il coinvolgimento della Santa Sede diveniva man mano la via obbligata per cercare di risolvere l'insieme della situazione. Era soprattutto sul piano della normativa liturgica che dovevano vertere le decisioni vaticane, in risposta cioè alla campagna per la ripresa o l'introduzione della liturgia granolitica, antica liturgia vetroslava o paleoslava. Una battaglia di tipo eminentemente culturale innanzitutto, già che sul piano pastorale la comprensione della lingua arcaica da parte dei fedeli era un fatto sicuro, come ripresa di tradizioni antichissime che offrivano così un collegamento ai secoli passati, un senso di continuità storica, un riferimento originale cui agganciare la propria nazionalità. Ma in tutto ciò, nella difficoltà di ricostruire documentariamente questo legame, si restavano anche le richieste per l'uso della lingua moderna, anche in chiesa, secondo consuetudini introdotte da decenni, nonché tutta quella serie di inserimenti spuri, brani di messe e cantici, sicuramente abusivi, che pure erano stati adottati più o meno recentemente. Uno stato di cose dove occorreva offrire una regolamentazione. Ma anche su questi aspetti si intravedevano gli indirizzi oscillanti della politica vaticana verso il mondo slavo. La liturgia granolitica, con la stampa a Roma da parte di propaganda dei relativi volumi, veniva concessa per i cattolici del Montenegro in occasione della stipula del concordato con la Santa Sede. Poco dopo, il mutuo viene a Liberti e non ha una circolare dei vescovi della monarchia affinché non si ponessero a Roma le richieste in questo senso. Tale intervento non subì tuttavia le effervescenze innescate su questa materia. Già nel novembre del 87 l'Episcopato del Litorale dovette pubblicare una pastorale collettiva contro ogni innovazione liturgica, in cui tra l'altro si stigmatizzarono le tesi di un giornale sloveno affinché che sosteneva che la Chiesa e il clero dovevano farsi promotori della ripresa della liturgia granolitica. Un primo decreto della Congregazione dei Riti del febbraio 1892, pur riconoscendo il privilegio di questa liturgia, ne limitava la possibilità di applicazione, mentre l'uso di lingue moderne era interdetto. L'anno seguente, la pubblicazione da parte della tipografia di propaganda a Roma della traduzione del rituale romano in lingua slavo meridionale, cioè il croato, il Rimski rituale, provocava una netta reazione in alcuni ambienti curiali. Infatti, a firma di alcuni censori ecclesiastici di chiara collocazione vaticana, venivano pubblicati a stampa dei cenni critici molto dettagliati sulla traduzione di termini ed espressioni usate che non corrispondevano al senso classico romano e latino. La polemica era rivolta ai mammaluchi che volevano rimuovere la venerabile lingua latina dai riti e dalla liturgia cattolica in altri paesi slavi. I toni quindi erano duri verso il tentativo di surrogare la lingua latina con lingue antiche o moderne, monche per lo più disadattate, come scrivevano, per mettere trascinare perfino sugli altari la miserabile lotta dei partiti nazionali e si mira per mezzo delle lingue di preparare le chiese nazionali. I riti spirituali, così come i testi per il Montenegro, anche dopo la scoperta di ulteriori imperfezioni, venivano sottoposti al giudizio del Santo Uffizio. Ma anche l'inizio della diversità di opzioni all'interno del Vaticano era uscita sulla Civiltà Cattolica nel maggio 1894 in una cronaca contemporanea sulla questione politico-religiosa in Istria e Dalmazia, indirettamente critica verso il clero croato. Fatto questo che provocava la risentita reazione dei professori del seminario di Zara. Una politica che non ebbe seguito, anche perché lasciata cadere dalla rivista dei Gesuiti su consiglio di Monsignor Cavagnis, segretario della Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari. E accanto a tali aspetti di carattere più generale si inserivano le richieste provenienti dal litorale, da parte dei vescovi, del clero e di alcune rappresentanze municipali. Ripetutamente il vescovo di Palenzo, Flap, richiedeva disposizioni precise da parte di Roma. Tale richiesta, presente in una sua lettera del gennaio 1890 alla Congregazione dei Riti, veniva ribadita nel novembre del 93 e ancora nell'estate dell'anno successivo, senza ottenere risposta. Così nel dicembre del 96 si rivolgeva ancora una volta ai propri superiori. Col sorgere della questione politico nazionale fra i due gruppi, sottolineava il vescovo testualmente, e cito, buona parte del clero slavo, col pretesto che la popolazione ancora rude di campagna, ha bisogno di chi la illumini e quindi, nel propugnare e rivendicare i propri diritti civili di rispetto alla parte italiana, e che il clero deve prendersi a cuore tutto ciò che sta nell'interesse, anche materiale, delle popolazioni, si fecero con i fedi nazionalismo e promotori e fautori di imitazioni in senso di esso. Conseguentemente, per tenere vivo il sentimento nazionale, avevano esteso nel culto usi linguistici non consentiti, di cui la reiterazione degli abusi introdotti, con la vasta gamma delle distorsioni entrate in uso. Tutte le acute riflessioni del vescovo mettevano poi, ripercorrendo la complessa storia delle varie edizioni dei messali, dei permessi, dei pontefici, eccetera, sulla legittimità di tali operazioni, a suo giudizio inesistente, rimanendo poi l'estraneità della sua diocesi rispetto al decreto del 1892, non avendo mai politico alcuna tradizione. La situazione era per molti versi una vera babele del culto, come scrive. La norma superiore doveva quindi servire a imporre una soluzione. E come scriveva, per torre l'ansa la parte italiana della popolazione, che è più volta, ma purtroppo anche la più esposta del flusso di dei liberali, di accusare la Chiesa e i suoi capi di una prudenza che confina con l'opportunismo politico. Ma almeno questa volta non si Flacco ottenne risposta, e una sua sollecitazione dell'aprile del 97 si rispose nel giugno successivo, rinviando le decisioni che si sarebbero prese in futuro nell'esigenza di approfondimento del problema. Nello stesso mese, infatti, la segreteria di Stato invitò la Congregazione dei Riti a studiare la questione in termini che per noi sono molto interessanti. Infatti, vi si alludeva esplicitamente all'esistenza di posizioni contrarie e favorevoli alle concessioni liturgiche, tra quanti vi vedevano un rischio di appiattimento sulla Santa Russia e lo scisma, e quanti invece un mezzo efficace per facilitare il ritorno dei residenti. In ogni caso, era necessario decidere, come si scriveva, per far cessare una simile agitazione che potrebbe diventare causa di gravi danni per la Chiesa e i popoli islamici. Nella raccolta di informazioni si era trivestita l'annunziatura di Vienna e nello stesso mese Monsignor Tagliani, il nunzio, inviava la relazione di Monsignor Magnich, vescovo di Veglia, e dello stesso Flacco. Però, come scriveva, disgraziatamente le notizie date dai due vescovi e le loro opinioni ed apprezzamenti non sono appunto d'accordo. Il vescovo Magnich offriva effettivamente un quadro molto diverso. Ponendosi sotto l'egida di Leone XIII, il prete ribadiva come fosse da conservarsi la liturgia slava, ove legittimamente presente, per favorire l'unione con gli scismatici. Nella sua diocesi, infatti, tali usi, che vantavano una tradizione antica, erano stati dichiarati come vigenti in alcune parrocchie, di lì la protesta, ad esempio, di eresine, aneresine dei fedeli italiani, per ripristinare l'uso del latino. Ma il vescovo, in attesa delle decisioni, aveva congelato la situazione per non favorire l'anarchia liturgica e non introdurre cambiamenti che potevano poi essere messi in discussione dalle decisioni romane. I nemici della liturgia slava, di cui tuttavia non si dichiarava lui esplicitamente un fautore, venivano significativamente individuati nella loggia massonica italiana, nei liberali empi e bestemmiatori, gli amici della Chiesa. Ancora diversi risultavano essere i problemi posti dalla diocesi di Trieste, in quanto, accanto alle questioni liturgiche, era la conduzione stessa della diocesi ad essere posta in discussione. Il Comune, infatti, aveva alzato il tiro delle proprie richieste, coinvolgendo la sede apostolica come un luogo memoriale contro il vescovo. Si richiedeva, infatti, lo spostamento al di fuori del dominio urbano di tutte le funzioni delle predite in Slovenia. Questi problemi non venivano posti soltanto dall'esterno dell'istituzione ecclesiastica. Nello stesso periodo, un nuovo memoriale del vescovo del clero italiano evidenziava da una parte il desiderio di poter meglio provvedere per i fedeli italiani, ma pure poneva l'istanza di ridurre in città e in altre località i servizi religiosi esistenti per gli slavi, giudicati come eccessivi rispetto alle proporzioni numeriche esistenti. Le notizie e i dati provenienti dal litorale, accanto a quelli dalla Dalmazia, erano quindi cruciali per affrontare a Roma le questioni linguistico-liturgiche, che a ben vedere e come non sfuggiva ai protagonisti, erano una delle facce dello scontro fra le nazionalità. Il nunzio italiano, favorevole a Flacco e avverso a Sterke e a Magnich, informava la Santa Sede il 29 ottobre del 1897 come il governo austriaco avesse ben poca simpatia e pochissimo interesse a favorire eccessivamente lo slavismo, che qui, come scriveva, è giudicato nelle alte sfere siccome pericoloso anche per il cattolicesimo, massimo se prendesse un maggior sviluppo. Egli stesso, nel marzo successivo, commentando il voto sull'intera questione fatto elaborare dalla Congregazione dei Riti al padre Schober, sottolineava le proteste e le precise contestazioni degli italiani del litorale, minimizzando le pretese di influenza in ciò degli italianissimi e dei framassoni, come si voleva far credere. Così si sottolineavano i rischi di concessioni alle diverse nazionalità slave dell'impero, in quanto tutti i vari popoli avrebbero conseguentemente richiesto l'uso della propria lingua, né si mancava di ribadire il giudizio tendenzialmente negativo del governo. Le osservazioni di Nunzio riuscivano indirettamente critiche verso quelle opzioni che pur erano presenti nella segreteria vaticana: puntare sulla liturgia slava per avvicinare alla Chiesa cattolica gli scismatici era a suo giudizio un'illusione che la lunga esperienza di tanti anni aveva scosso. Inoltre, seppur era necessario concedere al clero politico l'ado di esistesse un diritto in tal senso, la difficoltà di reperire fonti di informazioni e notizie storiche attendibili ostacolava le decisioni al riguardo. Né in questa occasione era possibile ricorrere ai consueti canali gerarchici, infatti scriveva il signor Taliani, con un giudizio che sicuramente comprendeva i vescovi di Trieste e Vede: i vescovi non vanno esenti dalla passione di nazionalità, anzi può affermarsi che in molti casi sono precisamente essi che hanno introdotto e favorito gli abusi in luogo di reprimere a tempo debito. Un giudizio quindi molto duro e netto, anche direttamente proprio dal Santa Sede, che quei vescovi da poco aveva approvato. E di qui faceva la sua domanda per avere un quadro ben fatto della situazione, la proposta di mandare un visitatore apostolico. Su queste basi, tra giugno e agosto del 98, la Congregazione Mista degli Affari Ecclesiastici Straordinari e dei Riti esaminava la delicata materia. In due sedute, il 16 giugno e il 4 agosto, vennero affrontate da prima le questioni generali, mentre nella seconda tornata, dopo la pausa di riflessione, si discussero i temi relativi alle diocesi di Vede e di Trieste. Infine, una cosa su Trieste si ebbe con una sessione ulteriore del 18 agosto, in quanto l'arrivo a Roma del memoriale del vescovo Stepp imponeva l'aggiornamento del dibattito. Innanzitutto, nella prima seduta vi era una generale presa d'atto che occorreva riconoscere qualche privilegio. Non facendolo si poteva andare contro il sentimento di nazionalità troppo forte degli slavi, come sosteneva Montelli. Agli Ardi, già annunzio a Vienna, trovava eccessiva la proposta di 100 anni di uso ininterrotto del glagolitico per poterlo legittimamente adottare, offrendo una precisa linea pragmatica. Per avere la pace, diceva, bisogna riconoscere lo statu quo. Il Ferrata, già annunzio a Parigi, ribadiva come fosse necessario parlare di concessioni e non di riconoscimenti, riconoscendosi comunque alla linea seguita da Leone XIII verso gli slavi, trattati, come diceva, con riguardo e benevolenza. Il cardinale Tagliuba, dopo aver inquadrato storicamente la vicenda, sottolineava che se per la Dalmazia con 16.000 italiani i problemi sarebbero stati relativi, l'Istria con i suoi 300.000 italiani offrì una situazione più delicata. Il cardinale Rampolla offrì uno schema di decreto la cui discussione veniva rinviata. Nella seduta successiva la discussione si incentrò sulla bozza redatta dal segretario di Stato. I casi del litorale erano ben presenti ai cardinali, come si desume dalla cospicua ponenza stampa preparata su Vede e Trieste. E per la loro soluzione, come si notava a verbale, si auspicava che con il decreto fosse ben provveduto. Si puntava cioè su un decreto per normalizzare la situazione. Un atto che, come sottolineava a termine della prima seduta, doveva disciplinare nei giusti termini lo stato suo. Solo per Trieste il caso appunto veniva ridiscusso nella sessione del 18 agosto, in cui in sostanza le tesi del vescovo Stepp venivano accettate. Abolire la predicazione slava in città, in sloveno, come richiesto dal municipio, sarebbe stato dannoso. Significativa era la posizione del cardinale Rampolla, che veniva così verbalizzata: crede che non bisogna respingere la cosa alle accuse e alle difese, ma sia all'assieme che al futuro. Bisogna guardare alla popolazione e non al municipio. L'attrito delle nazionalità bisogna schivarlo e la Chiesa non deve mettersi mano in lutto con lo spirito nazionale finché può. Gli effetti ne sono disastrosi. La risoluzione quindi da lui suggerita e poi effettivamente presa era quella di scrivere favorevolmente al vescovo, sostenendone le ragioni, ma invitandolo, senza pregiudicare la cultura spirituale degli slavi, di aumentare quella degli italiani, ricercando cioè l'accordo con l'autorità locale. Se infatti non sfuggiva che l'interesse del municipio per la lingua latina e la predicazione nazione italiana era fatta per spirito di nazionalità, occorreva in ogni caso provare a procedere in buona armonia, appianando le difficoltà. Queste specifiche decisioni per Trieste, accanto al decreto complessivo del 5 agosto sull'uso della lingua slava nella sacra liturgia, che riconosceva gravemente quale chiesa in cui fosse in uso interrottamente negli ultimi 30 anni, e altre cose che vi risparmio, secondo gli altri vaticani dovevano servire a risolvere le questioni aperte e regolamentare l'uso. Nei confronti del governo austriaco, la lettura del decreto che veniva offerta era molto specifica e limitativa. Il nunzio doveva far rilevare al ministro degli esteri come la Santa Sede provvedeva con tale atto al bene spirituale di un gran numero di fedeli, disciplinando strettamente lo statu quo e mettendo una regola alla crescente invasione della lingua slava nella liturgia. C'è una lettura quindi parziale, mirata. Nella realtà locale, al contrario, il decreto restò lettera morta. L'ultimo rapporto dell'anno seguente, nel 99, sottolineava come solo i vescovi di Parenzo e di Zara si fossero lodevolmente uniformati all'istruzione della congregazione dei riti, mentre i vescovi di Trieste e Veglia, facendo a suo dire causa comune per la non esecuzione delle stesse, con la loro passiva resistenza causavano confusione su questi problemi in tutta la Dalmazia. Gli ultimi anni dell'episcopato di Monsignor Sterk lo vedevano infatti molto spostato sul versante dei propri fedeli slavi. D'altra parte, il tanto evocato rischio di uno scisma trovava riscontro nel caso del villaggio di Lezmania, un villaggio sloveno alle porte di Trieste, in cui per motivi localistici si assistette al passaggio della comunità, per un breve periodo, alla giurisdizione in spiritualibus del vescovo greco-cattolico di Crisio in Croazia. Una vicenda complessa e per molti versi inaudita, già che i passaggi di rito erano sempre avvenuti in senso inverso verso la latinità e mai il contrario, risolvesse appena nel 1909 e che avrebbe posto in difficoltà il successore dello Sterk, Monsignor Nagel, e di cui ripetutamente si sarebbe dovuto occupare la Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari. Alcuni aspetti emergevano dalla vicenda, i rischi concreti connessi alla possibilità di espansione di casi simili, che pure si abbozzavano in altre parrocchie, la tenacia dei fedeli sloveni nel perseguire i propri scopi, giungendo anche alla frattura aperta con i propri vertici ecclesiastici, nonché l'influsso sempre più forte dei liberali sloveni sul proprio movimento nazionale. Non erano poi solo sul fronte dei fedeli slavi nel litorale a porsi le difficoltà di gestione e di scelta per i massimi vertici vaticani. Era tutta la dinamica emergente tra le varie nazionalità che investiva sempre più diverse regioni della monarchia. Così nel corso del 1899 la Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari doveva occuparsi del nascente movimento dell'Ors von Rom, dei deputati scelti del Regolo, in cui motivazioni di tipo religioso e confessionale coprivano in realtà moventi politici nazionali in un disegno filogermanico che tendeva a ribadire l'egemonia austro-tedesca. Sempre più le lotte nazionali facevano sentire il loro peso e la loro forza disgregante, né la Chiesa riusciva a rendersi del tutto estranea o a svolgere un'opera di pacificazione. Il clero si trovava ormai impegnato a condividere l'idolo del proprio spirito nazionale, l'idolo non lo dico io, una espressione, che veniva spesso preposto anche agli interessi ecclesiastici. Alcune delle risposte dei vescovi di Breslavia, Vienna, Praga e Salisburgo sullo Sforum alle richieste di Roma offrivano considerazioni di questo tipo. E anche qui, nelle realtà miste, come nella relazione del vescovo di Breslavia, emergevano aspetti per molti versi analoghi a quelli che caratterizzavano il litorale. Un clero slavo più numeroso e organico rispetto ai propri fedeli, apparentemente più religiosi, e appoggiato anche da alcuni vescovi. Un clero tedesco in declino, con minor capacità di presa sui cattolici, con una vita religiosa in diminuzione, anche per le leggi di laicizzazione che impedivano ormai il formarsi di forti coscienze cattoliche. All'inizio del secolo, con la morte dello Sterk, si rompe a Trieste la lunga successione di presbiti sloveni e croati. La disparità di vedute tra Nunzio a Vienna e il Vaticano, la scelta del successore, era netta. Mentre la Santa Sede caldeggiava infatti un candidato che conoscesse almeno una lingua slava, Monsignor Taliani giungeva a sostenere la tesi opposta per una città, come scriveva, che soffre da più di 50 anni mortalmente di un'amministrazione fanaticamente ed appassionatamente slava. Dopo varie vicende, Monsignor Nagel, un candidato neutro quindi, perché tedesco, veniva eletto. Egli impostava la sua azione nel tentativo di sottrarre la Chiesa alle spinte disgreganti, fuoriuscendo di fatto dalle contese di nazionalità. Un piano che puntava, per riuscire, sul ristabilimento dell'autorità sacra connessa al proprio ruolo episcopale, secondo quei principi di obbedienza a lui voluti da parte di tutto il clero, e sempre in un disegno gerarchico della piena applicazione dei decreti emanati dalla Santa Sede, trascurati per scelta dal suo predecessore. Un disegno che dava buoni frutti e che nel richiamo all'obbedienza della restaurazione gerarchica si inseriva nel clima dovutosi a creare sul polso di Roma di fronte alla crisi modernista. Un ulteriore nesso con la sede apostolica veniva a crearsi, con l'avvento di Pio X, anche attraverso l'obiettivo di inclinamento di quella politica aperturista di sostegno verso i popoli slavo-meridionali seguita da Leone XIII. Nella realtà locale, quindi, l'adozione rigorosa delle decisioni romane, con il decreto finale del 1906, che, oltre ad alcune restrizioni, prevedeva una ferma repressione di ogni ulteriore abuso, rappresentava un momento di svolta. Fissate rigidamente le regole e ribadita anche normativamente l'attività liturgica della diocesi, tutto il bagaglio polemico del Partito Liberale Nazionale si trovava in qualche modo spuntato. E non a caso tutte le questioni pratiche ancora in piedi, sul finire delle chiese di costruzione e via dicendo, trovano soluzione. Si riusciva cioè a sottrarre complessivamente la Chiesa dalla identificazione pure e semplice di essa con le popolazioni slovene a Trieste. Il terreno della lotta si spostava sul piano politico-sociale, con il vescovo impegnato a promuovere il movimento cattolico italiano sul piano politico, sganciandolo cioè dalla subalternità rispetto al gruppo igieno. Analogo disegno veniva messo in atto anche nei confronti degli sloveni, cercando cioè di spezzare quell'unione effettiva di cattolici e liberali nella società Edinos. Tentativi questi non del tutto riusciti. La partenza del vescovo per la sede di Vienna impediva lo sviluppo del disegno, soprattutto nel capoluogo. Ma non era da sottovalutare il risultato elettorale del 1907 che portava al Parlamento per il Collegio dell'Edizia Nord-Occidentale un deputato cattolico. Le nomine vescovili per Trieste tra il 1910 e il 1911 e per Parenzo Pola nel 13 fecero riemergere il vecchio problema del reperimento di candidati idonei anche in relazione alle lotte nazionali. Inaspettatamente a Trieste rispuntava un vescovo sloveno, Monsignor Carlin, che sarebbe stato l'ultimo. Il disegno vaticano, in pieno accordo con le autorità governative, di promuovere la carica all'italiano Castellis, rettore del seminario di Gorizia, non trovava accoglimento, nonostante Pio X intervenisse ripetutamente in prima persona. E il rifiuto del candidato, oltre a motivazioni personali, si appoggiava sostanzialmente sulle accuse contro la sua nomina provenienti da alcuni ambienti liberali di Lubiana. Per Parenzo, seppure il candidato Pedersoli si dimostrasse imparziale su questi aspetti, come sottolineava l'annunzio, non sembrava oltre una buona mediocrità, né era a favore dei cattolici italiani inseriti nella vita politica, che richiedevano un vescovo energico e sostenitore dell'azione cattolica, mentre al contrario era la luogotenenza di Trieste a volere candidati deboli e subalterni all'autorità. La scelta a Trieste di Monsignor Carlin era ancora quella di un prelato nazionalmente moderato, che rispetto al predecessore abbandonava però il terreno della mobilitazione politico-sociale, segnando in questo senso un passo indietro. La ripresa delle tensioni tra le nazionalità vedeva quindi anche il cattolicesimo organizzato dalla parte italiana riprendere le parole d'ordine della difesa dell'italianità del capoluogo, riproponendo così al fondo la propria sostanziale non alterità rispetto al blocco liberale nazionale. Nella parte di quest'ultimo si mancava di riprendere l'armamentario polemico verso il vescovo o il clero sloveno e croato. Sul fronte cattolico la guerra sembrava di compattare i legami dinastici di fedeltà alla patria, mentre sul versante religioso si assisteva ad una ripresa forte dei temi devozionali. Ma non si può concludere questo lavoro senza fare un cenno alla dopoguerra, poiché sul piano nazionale la nuova appartenenza statuale della regione avrebbe rappresentato un rovesciamento totale di prospettiva. Non mancavano infatti aspetti di pura rilevanza: l'arresto e la deportazione di Monsignor Magnus e l'attacco massiccio a Monsignor Carlin da parte delle autorità militari di Trieste portarono nel giro di un anno la sua uscita di scena. La pressione sul clero slavo e su quello italiano considerato come austriacante fu immediata. Si colpirono i più esposti e si chiudono i conti aperti durante il conflitto bellico. Ma al di là di questo, credo di poter dire che per la parte di noi ritrovato si tratta di una manovra che aveva come obiettivo che aveva preso nel suo complesso. Esso viene considerato sì che esplicita come slavizzatore e come tale costeggiato e combattuto. In questo senso la politica liberale nazionale dell'ultimo trentennio sembrava giungere a compimento, nel disegno cioè di sottoporre la Chiesa alla propria politica, nel segno di una latinità che diventava facilmente sinonimo di italianità e più in là di italianizzazione. Si ponevano qui, come negli anni precedenti, le premesse culturali per la politica di snazionalizzazione delle popolazioni slovene e croate della regione operata dal fascismo. Fumetto dei vescovi successivi, stavolta italiani, e in particolare di Bartolomeo Fogar, di cercare di combattere e di rallentare